Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Scusate la voce un po' bassa. Il freddo lascia un po' di strascichi. Allora, mail unabusoalgiorno@radio24.it, è lì che potete scrivere per segnalarci i vostri casi. Vi ricordo poi il nostro portale radio24.it, dal quale potrete scaricare le puntate che preferite di qualunque trasmissione, compresa la mia. Ebbene, se andrete poi nella mia trasmissione troverete anche il profilo con il mio blog, il blog Guardie o Ladri, che vi invito a visitare, o in questo modo attraverso un accesso diretto dalle pagine del Sole 24 Ore online. Allora, parlavamo di radioascoltatori e un radioascoltatore ci ha chiamato da Pavia, quindi siamo in Lombardia. Il nostro radioascoltatore si chiama Flavio Ferrari e, dopo aver ascoltato una puntata in cui parlavamo di una variazione contrattuale delle condizioni di mutuo applicate dalla banca ad un correntista, ha deciso di scriverci per dire: non metto sotto accusa assolutamente la mia banca, nei confronti della quale ho tutto un ottimo rapporto, ma vi faccio presente che la pratica, così come dire, di cambiare le condizioni contrattuali di mutuo è abbastanza frequente anche nei confronti di clienti che hanno ottimi rapporti con la banca stessa. Allora, la banca in questione con la quale Flavio Ferrari ha un conto corrente è la Fineco Bank, e noi abbiamo al nostro telefono Franco Ravaglia, che è il direttore generale di Fineco Bank. Buongiorno Ravaglia. Buongiorno. Flavio Ferrari, che è il nostro radioascoltatore pavese. Buongiorno Ferrari. Buongiorno a tutti. Ed Elio Lannutti, che è il presidente di Adusbef e sapete che è anche un senatore della Repubblica. Buongiorno, buongiorno Lannutti. Buongiorno. Allora, fatta la premessa che lei ha un buon rapporto con la banca e fatta la premessa doverosa ancora una volta da parte mia, che quando chiamiamo le banche io ringrazio sempre coloro le quali partecipano, perché molte, chissà perché, preferiscono rimanere dietro le quinte, non partecipare, hanno altro da fare, non è vero quello che viene scritto. Insomma, la difesa viene fatta non sul campo, ma quasi con una presunzione di colpevolezza di chi fa presente il caso. Invece il confronto, la dialettica è la cosa migliore, la democrazia vive di questo. Allora Ferrari, ci spieghi un pochino il suo rapporto contrattuale modificato nel mutuo con Fineco Bank. In estrema sintesi, io ho infatti ricevuto qualche giorno fa una comunicazione da Fineco Bank, ma appunto utilizzo con soddisfazione da parecchi anni, in merito alle variate conduzioni dei tassi di interesse applicati ai conti correnti. Infatti, a partire da marzo, Fineco applicherà a tutti i conti correnti, in sostituzione del tasso di interesse di riferimento vincolato al BCE, l'indice Euribor 360 ad un mese. La quindi differenza... anziché fare riferimento al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, fa riferimento all'Euribor 360 ad un mese, esattamente. La differenza tra i due tassi è attualmente significativa, stiamo parlando di circa 0,5 punto percentuale, e con sfavore ovviamente dei correntisti, in quanto l'Euribor è più basso rispetto al BCE nell'attuale, mentre nel passato era superiore, anche se di poco, al BCE. Ecco, ma in buona sostanza lei si troverà, come dire, quasi ad accettare gioco forza quelle che sono le modifiche che vengono a lei sottoposte dalla sua banca. Ovviamente non si può far altro se non ricevere dal rapporto. Questa cosa ovviamente non mi lascia particolarmente soddisfatto, come me penso gli altri correntisti. Certo. E appunto quello che vorrei è un chiarimento del perché, con questo tempismo perfetto, nella prima situazione in cui l'Euribor risulta più basso del BCE, viene portata questa assolutamente variazione. Allora, lei è stato chiarissimo e mi fa piacere che sia stato chiaro, perché questa non è una trasmissione di natura finanziaria, ma è una trasmissione nella quale bisogna cercare di rendere chiarissimo e facilissimo quello che magari è complesso. Allora, Ravaglia, a lei la spiegazione sul perché Fineco Bank si è comportata in questo modo. Grazie mille dell'opportunità che mi avete dato di poter parlare di questo problema. Grazie a lei. Allora, innanzitutto sono un po' rammaricato, perché evidentemente la lettera che abbiamo mandato a tutti i correntisti non era chiarissima. La lettera che abbiamo mandato a tutti i correntisti spiegava dettagliatamente i motivi di questa operazione, che cerco di riassumere brevemente. Da quando è nata Fineco, nel 1999, ha sempre ancorato i propri tassi al tasso BCE, che è il tasso al quale le banche centrali, le banche si rifinanziavano presso la banca centrale. E questo è stato un tasso che è rimasto, diciamo, di mercato per 10 anni. Cos'è successo nel 2008? Non devo raccontarvelo io, è stata una crisi epocale del sistema creditizio. Questa crisi epocale del sistema creditizio ha fatto sì che il BCE non fosse più un tasso di mercato. La banca centrale non aveva più intenzione di finanziare le banche, stante la liquidità massiccia che avevano, che riuscivano a investire, e l'ha tenuto lontano da quelli che sono i tassi di mercato attualmente in essere. Vi spiego meglio. Le banche impiegano l'Euribor, si scambiano i soldi tra di loro all'Euribor, il BCE è rimasto lontano da questi valori. Cosa potevamo fare? Potevamo mantenere quel tasso, potevamo cambiarlo, potevamo azzerare il livello sui conti correnti. Abbiamo deciso semplicemente di allineare i rendimenti dei nostri clienti ai rendimenti di mercato. Quindi io riassumo volgarmente quello che lei ha detto e lei mi corregge, Ravaglia, se io sbaglio. Cioè, ad un certo punto la Banca Centrale Europea, per quello che sappiamo tutti essere successo, non poteva più darvi i soldi, finanziarvi. No, a questo punto la Banca Europea non finanzia più le banche a dei tassi. Ah, esattamente quello che ho detto io, cioè non poteva essere più concorrenziale nel finanziarvi a quei tassi. Quindi voi avete fatto riferimento ad uno scambio che invece è uno scambio tra banche, anziché uno scambio facendo riferimento alla Banca Centrale Europea. È così? È così. Oh, benissimo. E quindi è stata quasi una scelta obbligata, Ravaglia, giusto dal suo punto di vista? Dal punto di vista è una scelta di sistema proprio. Certo, il tasso, certo. Che è un tasso adeguato per remunerare la clientela, non lo è più perché è un tasso fuori mercato. Guardate cosa è successo con il prime rate ABI. A un certo punto è stato un tasso di riferimento, a un certo punto diventa vecchio e per stabilire un rapporto coerente si adegua ai tassi di mercato. Ecco, però quello che ci dice il nostro radioascoltatore, questo qui è stato comunque una scelta obbligata, come lei ci ha spiegato, io non ho motivo di dubitarne, che però svantaggia il correntista. E questo è quello che voglio dire. Allora, prego. Pensiamo ai tassi di mercato, pensiamo all'Euribor. L'Euribor un anno fa era il 5%. L'Euribor è il tasso a cui le banche si scambiano le liquidità tra di loro. Pensare che un cliente retail ti entra in un rapporto con una banca a un Euribor meno 0,25, secondo me è un chiaro sinonimo di una crescita della potenzialità del cliente. Si avvicina a quello che è il valore in cui si scambiano le banche i soldi tra di loro. Va bene, allora lei è stato chiarissimo, non c'è nessuna manovra che nella vostra intenzione può o anche minimamente debba danneggiare il cliente si trova però, diciamo, con una situazione meno favorevole, secondo quanto lui ci ha dichiarato, scelta obbligata, non più BCE, ma scambio di liquidità tra banche e quindi nuovo tasso di riferimento. Lannutti, a lei il compito di sintetizzare con un commento quel che è accaduto. Allora, io contesto le affermazioni del direttore. Prima di tutto perché Euribor è un tasso che viene stabilito dalle banche, mentre il tasso BCE è stabilito almeno con la parvenza di neutralità da parte della Banca Centrale Europea, al punto che esistono norme approvate dal Parlamento per ancorare i mutui ai tassi della Banca Centrale Europea. Che poi BCE non eroghi tassi alle banche è una cosa davvero che apprendo oggi, perché so che dopo la crisi la BCE si è svenata per finanziare le banche, per dare soldi alle banche a tassi di interesse e di affezione, ossia l'1%, e le banche da questo ci speculano con il carry trade in gergo e continuano a costruire piramidi di derivati. Allora, mi dispiace, non sono d'accordo con il direttore, dovrebbe trovare una giustificazione più convincente. Ecco, ma se così fosse, noi abbiamo sentito le campane diverse, se così fosse, quale consiglio può dare lei ai correntisti che, lasciamo perdere Fineco Bank, che non è oggetto di polemica mirata, perché come lei probabilmente moltissime altre banche si sono comportate, qual è il consiglio che lei può dare ai correntisti che si trovano in queste condizioni? Correntisti che si trovano non devono più subire le angherie e gli abusi di questi sistemi signori banchieri devono cominciare ad alzare la testa e a cominciare a fare causa. C'è anche uno strumento, seppur svuotato, che la class action cominciassero ad attivare questi strumenti, si rivolgessero alle associazioni dei consumatori. Bene. Perché fare banca in questo modo, come lo fanno questi banchieri, non è più tollerabile. Bene, noi torneremo su questi argomenti. Abbiamo sentito campane diverse confrontarsi tra loro. Io ringrazio i nostri ospiti, così come in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. We'll be right back.